llegue pupo el ñoni le cale lunina le cale lunina esi lagani llegue pupo le cale lunina le cale lunina esi lagani Jelo mtwana ekhalele bene uyalkhalele bene liganina Jelo mtwana ekhalele bene uyalkhalele bene Jenge soja okwadule likhalela manzi yawakhalela manzi Jenge soja okwadule likhalela manzi yawakhalela manzi Amiga njalo papa un perfume lo wami ulanga selela wena njenga kusela yomela mbazi amiga njalo papa un perfume lo wami ulanga selela wena Jenge kusela, yomela mas.